festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più, biondi capelli e rosa di guancia, Oscar ti chiamerai tu. Il buon padre voleva un maschietto, ma ahimè sei nata tu. Nella culla ti ha messo un fioretto, Lady dal fiocco blu. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, tutti fanno festa quando passi tu. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, come un moschettiere batterti sei tu. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, le grandi alla corte ti invidiano perché. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, anche nel duello eleganza c'è. Oh Lady, Lady, Lady, di Francia, a palazzo si dorme già, tre briganti con spada e con lancia, agguato a sua maestà. Lady Oscar si è proprio nascosta nella grande stanza del re, con scatto felino ed abile mossa colpirà tutti e tre. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, la tua spada fischia, non delude mai. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, anche nella muschia vincere tu sai. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, le grandi alla corte ti invidiano perché. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, anche nel duello eleganza c'è. Oh Lady, Lady, Lady, Lady, oh Lady, Lady, Lady, Lady, oh Lady, Lady, Lady, Lady, oh Lady, Lady, Lady, Lady, oh Lady, Lady, Lady Oscar, tutti fanno festa quando passi tu. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, come un moschettiere batterti sei tu. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, le grandi alla corte ti invidiano perché. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, anche nel duello eleganza c'è. Oh Lady, Lady, Lady, Lady, oh Lady, Lady, Lady, Lady. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, la tua spada fischia non delude mai. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, nella mischia vincere tu sai.